Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata speciale natalizia, quella odierna di Giovani Talenti. Entriamo con oggi in una trilogia delle feste, tre puntate che ci terranno compagnia da qui al 4 gennaio, nel corso delle quali potrete ascoltare alcune delle migliori storie andate in onda nel corso del 2013. La frase della settimana, per rimanere in tema natalizio, è copyright di Papa Francesco. Pensiamo alla percentuale dei giovani che in questo momento sono senza lavoro. In alcuni paesi si parla del 40 o più per cento di giovani disoccupati. Questa è un'ipoteca per il futuro e se questo non si risolve presto, abbiamo la sicurezza di un futuro troppo debole o di un non futuro. Così il Papa. Aggiunge il presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco, la crisi colpisce in modo particolarissimo i giovani. Non possiamo più assistere alla loro emigrazione. L'emigrazione dei giovani, ha detto il cardinale, l'abbiamo vista una volta, ma è dolorosa vederla ancora, soprattutto quando è forzata, quasi di massa, anche perché moltissimi giovani con cui parlo non vanno via volentieri, lo fanno spesso col cuore piccolo. Noi aspettiamo che questa valanga di dichiarazioni che vi riportiamo ogni settimana si trasformi in azioni concrete, con risultati concreti. Questo sì, sarebbe davvero un bel regalo di Natale. Vi lasciamo ora con qualche spunto di riflessione, sempre in tema natalizio. Chiamiamolo pure spazio per un food for thought, cibo per la mente. Bene, tra i regali più in voga per Natale, tanti sono i cosiddetti gadget tecnologici. Lo sapete che, secondo un'indagine del barometro Intel sull'innovazione, gli italiani sono tra i primi nel mondo per passione tecnologica, ma come paese siamo fanalino di coda, ultimi per innovazione, consumiamo ma non innoviamo. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Intanto, proprio gli italiani a Natale chiedono più lavoro e meno tasse. Il 56% dei connazionali, secondo un sondaggio Confesercenti SVG, indicano come priorità per il paese la creazione di occupazione, mentre il 27% del campione vorrebbe una riduzione del fisco. Il Natale 2013 si presenta ancora difficile per il 22% degli intervistati, ma c'è posto per la speranza. A sperare sono però più gli ultra cinquantenni, il 70%, che i giovani, 51%, e questo qualcosa vorrà pur dire. Giovani italiani che, come ben ci spiega il Fondo Monetario Internazionale, detengono una quota sempre più bassa della ricchezza nazionale. Occorrerebbe realmente un po' più di autonomia e benessere alle giovani generazioni italiane, anche in prospettiva futura. Secondo l'OCSE, i giovani della penisola hanno un avvenire incerto. L'adeguatezza dei redditi pensionistici potrà essere un problema per le generazioni future e i lavoratori con carriere intermittenti, lavori precari e mal retribuiti, saranno più vulnerabili a rischio di povertà durante la vecchiaia, denuncia l'OCSE. Una segnalazione per chiudere: si terrà il 27 dicembre a Belluno il terzo incontro della community bellunoradici.net. Emigrazione 2.0, questo è il titolo dell'evento di quest'anno, che si concentrerà in particolare sulla mobilità giovanile nel Veneto e ovviamente i nuovi emigranti. Siamo giunti alla prima storia che vi raccontiamo questa settimana. Storia che ci porta lontano, fino in Cina. Storia di una giovane professionista architetto trentenne che in Estremo Oriente ha scoperto come per il suo lavoro si possa persino essere pagati. A Milano, capitale italiana del design, questo era invece una pura chimera. Riascoltiamo insieme la storia di Valentina Preti, che abbiamo incontrato lo scorso giugno. Nome: Valentina. Cognome: Preti. Età: 30 anni. Città di origine: Modena. Studi: laurea specialistica in architettura e infine un master in sostenibilità ambientale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: il 2010. Per andare dove? In Cina. Perché? Per lavorare come urban designer in uno studio australiano. Quale lavoro svolgi attualmente? Urban designer. Dove? A Shanghai. Tornerai? In Italia non credo, per ora. Dopo 10 mesi di contratto in Cina mi capita ancora di pensare con stupore al fatto di avere un lavoro e uno stipendio, ma sto già pianificando il percorso di carriera che spero di riuscire a percorrere con relativi aumenti di salario. Mi pare che in Italia, soprattutto nel campo dell'architettura, si abbia la percezione di non avere altra scelta che lavorare per pochi spiccioli. Così, Valentina, ti sei presentata qualche tempo fa a Giovani Talenti @radio24.it. Zero soldi, zero prospettive di carriera, una visione impiegatizia e poco creativa del lavoro riservata alle forze più fresche della società. In una immaginaria serie calcistica della

che è un programma di studi che ti permette di scegliere le classi da frequentare secondo i tuoi gusti e le tue esigenze, senza seguire un percorso interamente definito. In tutta onestà, una carriera così rapida e fulminante in Italia sarebbe stata possibile? Io credo che la mia carriera stia cominciando adesso, ma di certo qui ho avuto tante possibilità, poiché sono riuscita a realizzare le mie idee musicali sempre, anche a collaborare con dei musicisti con molta più esperienza di me. Perciò credo che l'America è il posto giusto dove poter provare e realizzare i miei sogni. E questa primavera hai realizzato Lunaria, il tuo primo album a breve in uscita, di cui stiamo ascoltando un altro estratto. Quale tipo di musica troviamo in Lunaria? In Lunaria si trova esattamente me, quindi con tutti i percorsi musicali e anche personali che sto facendo in questi ultimi 2 anni. Quindi c'è la musica classica, c'è l'influenza jazz, ma anche Middle Eastern music, quindi la musica araba. Quanto è stato semplice o meno produrre un proprio CD negli Stati Uniti? Quanto è diverso il mercato musicale al di là dell'oceano? Se sei un artista indipendente, così come io lo sono, almeno per il momento, produrre un disco non è mai semplice, credo, ovunque ti trovi. Ma di certo qui ho incontrato le persone giuste, che quindi hanno investito nel progetto e si sono dedicate interamente. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Io credo che l'Italia abbia bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale, come la chiamo io, una rivoluzione umana, attraverso cui presentare un modello di leadership completamente diverso da quello attuale. Il mio sogno è quello di vedere al governo un giorno delle persone per bene, dei politici con un forte senso di responsabilità che siano davvero al servizio dell'Italia e non del proprio ego e dei propri interessi personali. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando. Concludiamo oggi la nostra puntata con un salto in Ateneo per aprire uno spaccato sulle tesi di laurea dedicate al fenomeno del brain drain. Abbiamo intervistato un giovane dottore che, proprio alla fuga dei talenti, ha dedicato il suo lavoro di fine carriera. Ascoltiamo l'intervista con Massimiliano Musolino, autore della tesi Brain Drain, una scelta forzata per un futuro migliore. Massimiliano ha conseguito la laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali a Bari, ora vive in Gran Bretagna. Io il titolo l'ho scelto alla fine, dopo aver scritto la tesi, è perché è venuto fuori studiando i dati, studiando cosa fanno all'estero i laureati, comparandolo con cosa fanno in Italia. All'estero, purtroppo, da italiano diciamo purtroppo, stanno meglio che qui, quindi è una scelta forzata. Siamo l'unico paese in cui a 30 anni, se hai la laurea o no, l'indice di disoccupazione varia dello 0,1. Quali sono i dati tra quelli che hai raccolto nella tua tesi che più ti hanno impressionato? In realtà, più che i dati, mi impressiona la mancanza di dati, perché è estremamente difficile riuscire a trovare dei dati che siano precisi e completi. Ma tra quelli che hai comunque citato nella tesi, c'è qualcosa che ti ha impressionato in particolare? Sì, ed è il costo in capitale umano che ha perso la nostra nazione negli ultimi anni. Secondo quanto risultato dall'OCSE, l'Italia dal 2002 al 2011 ha perso quasi 1 miliardo di euro in capitale umano. L'aspetto più sorprendente della tua tesi è che tu stesso, alla fine del tuo percorso di studi, hai scelto di andare in Gran Bretagna. Perché? Io l'ho fatto per motivi strettamente personali, ma penso che una volta laureato avrei fatto lo stesso percorso, perché alla fine le possibilità sono migliori e a livello proprio di numeri. Lavorano di più, con una percentuale più alta, prendendo in media 500 rotti euro in più rispetto ai coetanei nelle stesse situazioni lavorative in Italia. La cosa che io trovo sia veramente interessante nel mercato del lavoro inglese è che hanno delle cose chiamate graduate scheme, in cui grandi aziende prendono neolaureati con contratti di 1 o 2 anni senza richiedere esperienze, quindi solo a livelli personali, di che persona sei, di che cosa hai fatto all'università, per formarti. Hanno questi programmi fatti apposta per creare l'esperienza. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Università Giovane. Dibattetene in 140 caratteri.